all'ufficio delle entrate e ti arrivano le cartelle da pagare tutti gli anni, che per dire hai messo una veranda o fatto qualche modifica alla casa, capito? Non chiederò meno, non dirò meno, io se ho dei permessi ho dovuto chiedere per fare i lavori, un bel, parecchi, io quando ho fatto la veranda lo stesso ho dovuto chiedere il permesso, capito? Senso a consenso, dopo 30 giorni non hanno risposto, allora l'ho fatto fare. Sono venuti, hanno fatto le foto, hanno voluto la documentazione, non mi hanno detto niente. Se non avessi avuto la documentazione mi viene fatto lo verbale. E così adesso, casino. E poi praticamente hanno messo tutti in mano alla banca, noi abbiamo fatto la riunione per questa cosa, hanno messo tutti in mano alla banca. La banca nomina un ispettore che va a ispezionare tutto l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, tutto quanto. Cioè li vuole una casa sotto sopra, se non va bene te lo fanno rompere, te lo mettono nuovo, e quello lì con 112%, però la parte del palazzo mi pare che danno l'80%. 5% della testa qua bisogna mettere per arrivare al 120%, capito? La massa te ne varia. Oh, ciao, finita la giovedà di Naio. Io ho pagato la quota di marzo, dal 1 marzo, infatti gli ho detto guarda che quella di aprile non te ne pago io. Ma se no, tranquillo, guarda che a fine mese c'è anche la luce staccata, quindi io non usufruisco di nulla, a me non mi dica più, arrangiati col nuovo proprietario perché non ti do manco una lira. Sì, è la stessa cosa per lui, 500 della testa, per questo diciamo questo tecnico che viene a ispezionare, dobbiamo pagare 500 della testa. Luciano, ho visto la lettera, io stavo per buttarcela, invece poi me l'ho letta, ci rabbiglia il luci, perché sono andato a ritirarmi il certificato di abitabilità che l'ha voluto notaio, il certificato di agibilità, tutta la documentazione, che non avevo mai ritirato niente, sono andato dal geometra, mi sono fatturato tutta la documentazione, ho consegnato tutto e voi avete 400 euro, come 500 euro? Guarda, io non sono più proprietario della casa, io sono proprietario sino al 30 di maggio, capito? I lavori li iniziate, dice che li iniziano a settembre mi sembra, e la battita della nuova proprietaria. Anche il capotto li devono mettere. Allora, tutto devono fare già. Però non sai cosa c'è qua, che se lo fai adesso ti viene di meno, se lo devi fare dopo, magari perché ti obbligano i vigili del fuoco, che devi fare la ristrutturazione del palazzo e cose del genere, ti viene in dubbio. Perché anche a mamma il comune però gli aveva dato la metà per fare il palazzo, la facciata, gli avevano dato la metà l'avevano messa loro e così gli era convenuto, però farla tutta quanta loro e gli venivano 7.000 euro a testa mi pare, 7.000 euro, allora c'erano i milioni. Già, come scusi a Franco, qua hanno deliberato questa roba qui adesso, ma penso che al prossimo anno, nel periodo caldo, facciano la facciata della torre, capito? I quattro lati, e lì sono un botto, minimo sono lo stesso, 7-8.000 euro a testa, minimo, se non so dezzi, quindi ho fatto in tempo, no, non mi interessa più niente. Sono dell'87, già mi sono spostato 3 anni e buio, poi sono tornato nuovamente qua, quindi un appigliato di nalgo mondo mio, basta così, finiti giochi, no, non ci pagherà più nulla, figurati che non pago manco acqua, io ho fatto fare il pozzo a 60 metri, scelga da leva, ma Eva che non è acqua bella già, è potabile al 100%, ho fatto fare tutte le analisi, il laboratorio a Trucco Reale, favolosa, non è calcarea, non c'ha conducibilità, durezza, è perfetta, non lo usiamo per bere, ma almeno c'ho l'acqua pura, sana, c'è una sorgente lì allucinante, capito? Quindi il kilowatt, vabbè, sono 6 anziché 3 perché ci sono i motori della piscina. Vabbè, comunque ci sono i pro e i contro, perché quando vivi così in casa che non sei in condominio, se ti si rompe una cosa devi pagare tutto da solo, invece il condominio lo dividi, però ci sono i pro e i contro, si sta meglio, c'è più pace e tutto. Avanti, Fra. Guarda, io non invidio niente, perché io a casa comando io, e lo vedo invece la domanda là. È bello, sono Sassari, sono per una cosa, perché c'è tutta portata di mano. Vai veloce, compri se devi comprare da una posta all'altro, c'hai tutti i negozi. Ma del resto non invidio niente. Così è, Claudio. Vai da una che desidì, 15 di forse. 15 giorni che sono più qua che là, ma ti dico che sono arrivato già da adesso. Voglio buttare 5 minuti da casa, andare alle Rospinde e Pradania da 5 minuti. Tutta la roba che mi serve, raccorderie, balle varie, anche l'altro giorno c'è un altro, mi serve, sto andando, 5 minuti. So che andate e tornate al Bricomè. Io non avevo una lì attraversare tutta la città. Diciamo che in città sei più agevolato, sì. Certo, tu adesso dove sei ritornato lì, c'è più vicino Bricome, c'hai uno sì vicino lì. Certo, se poi vuoi andare lì all'emiciclo devi attraversare Sassari. Andiamo all'emiciclo, è per un boom. Ma lo sai, io allora dall'87 facciamo, allora dall'87 sino al facciamo tutti gli anni che io sono qua, sono stato a Sassari. Io non mi ricordo di essere passato all'emiciclo mai, forse qualche volta, perché io se devo uscire, esco sempre dalla circonvallazione, mai faccio Santa Maria o faccio, capito, quella zona lì, mai, io faccio sempre la circonvallazione. Se poi devo avvicinarmi, i posti sono quelli, Predanie, da quella zona lì, capito? No, ma tranquillo, io c'ho anche la farmacia, c'è giù a Canica, quindi non c'è problema. C'è tutto, Fra, no, non mi sei venuto a me. Oh, tranquillo, va. Se vuoi dire c'è un Renato, lascia perdere. Ma la casa della ragazza di Franco, lontano, sì, Fra. Allora, Lucia è praticamente a... come ti diciamo, chissà cosa, la strada che fa Carica San Giorgio, a Tana Romazzoni, no Tana Romazzoni, Roda e Paccarda a Mibari, un bel lontano, un bel, io sono, cosa ti posso dire, siamo a 100 metri dalla casa della ragazza di Luca, quando tu sei da Columbano, non so, ce l'hai presente Columbano? Sì, il Bar Tabacchi. Allora, dal Bar Tabacchi faccio 200 metri, giro la circonvallazione per salire a Monte Oro, sono arrivato. E lì passa anche Franco, per andare a casa di Lucia passa anche Franco, dici da destra, poi va verso la farmacia e poi tira dritto. Bravo, lui va dritto, però lui fa la strada vecchia per andare a quella che va a Usini, cos'è, Usci, Usini, non lo so, quella vecchia che c'era prima. Io no, io prima del ponte, lui passa sotto il ponte, io prima del ponte giro a destra e sono arrivato. Dove c'è praticamente la tenuta di Antonello Cesaraccio. Non lo so, comunque ho capito più o meno. Avanti, Franco. Vedo. Non ho capito, ma sei lì a cosa, a Monte Oro oppure a Canica? Non ho capito. Ciao Franco. Chi è che si è saltato Franco? No, la strada è quella, per salire da Monte Oro si passa o dalla strada vecchia della Landriga, ok, e quello è una parte di Monte Oro, oppure Monte Oro Balcone, io sono dall'altra parte, proprio io sono a 50 metri dal ripetitore della RAI. Chi è che si è saltato Franco? Io, Cla. Ah, Luca, tu sì. Ciao Luca, mi hai ascoltato? Passavo, mi sentivi? Sì, sei basso oggi, però già ti sento. Vabbè, già sono basso di statura comunque. Cos'è, da tuo fratello non hai preso niente? Oh, sono alto 1,30 m, 1,40 m, là. Anche visto è asso, questo. Anche visto che lui ha il bel, hai faccia? Vedo è qua. 1,40 No, già sono alto, non quanto Giovannino. Sono 1,77 E allora già... Già siete alto. Io sono un Vattusso. Già, tu sei un bonsai. Io sono 1,82 Tu sei un bonsai, Gianni. No, ma dico che i sardi sono bassi. Ma per carità. Vabbè, io sono della Milanese. Ah, così è. Allora, non comment. Vabbè, io per essere sardo sono abbastanza alto, là. E beh, ce ne sono nei paesi proprio dell'entroterra, ce n'è un medico gente bassa. Infatti, ma non tutti però. Anche io sono basso, Luca, eppure già il vento mi passa sopra, sono 1,30 Già va bene, fra. Pensate chi passa il vento, io ti t'arrica. Ho penso, bisogna pulire il marraggio in busciacca. Avanti, Manni. Perché tu devi urlarti tu? E allora, per carità, almeno io, papà già era basso, ma almeno io, vabbè, io e un altro mio fratello, tanti due fratelli siamo alti, io sono 1,75 e lui è quasi vicino a me, da più o meno. Poi c'è mie sorelle, sono tutti tappi, tutti bassi bassi. Vabbè, già vuoi qua. Vuol dire che devo nascere basse. Pensate che vi sia la salute, e poi la fede non conta. Ulisse non conta, no. Claudio! Come è possibile che aggiungesse un contatto a tuo? Ti volevo mandare dove sono, giusto il riferimento, però non riesco a trovarti. Contatto, ma il numero del telefono ce l'hai? Beh, certo che sì, ma mi sei sparito la WhatsApp, il cazzo tuo telefono, una cosa allucinante. Vabbè, scrivi il mio nome e te lo dà. E infatti, vabbè, io dopo di... No, per dove c'è scritto cerca, metti il nome di Franco, metti Franco di Sorso. Oh, ma c'era la fotografia tua da giovane? No, è stata, ce n'era una che è stata modificata, me l'hanno modificata, mio nipote giocandoci mi ha modificata, prima del telefono me l'ha modificata. Ma che ha detto, moglie Ive? Ma no, nessuno. Non c'è nessuno nella foto? Claudio, mio, ho visto la... No, sono da solo. Sì che l'ho visto il tuo, già. L'ho messo oggi, dopo che l'ho fatto, l'ho messo. Aspetta che ti mando un ciao io e poi ti arrivo. E io ho tolto il mio già. Ho messo l'MC60. Perché? Ah? Perché l'hai tolto? Così ogni tanto cambio, ho messo l'MC60 adesso. Ma lo rimetto. Ah, ma non l'ha gatto nemmeno, quindi è porca miseria. T'ha pagato. Andava. Trovato l'aia, Franco. Ma l'ho trovato, ma dimmi tu cazzo questo telefono. Mia, vabbè. Vabbè. Vabbè, devi mettere il nome dove c'è scritto cerca. C'era adesso, ce l'ha, io gli ho mandato una cosa, gli ho mandato. Ma guarda, ma sì, ma non ho capito perché è sparito, beh. Quando non lo usi più, poi piano piano scende giù e se ne va. Sì, la mazza ne devi fare, cazzo, beh. Purtroppo è così. Però no, ritorna subito, basta mandare una cosa e ritorna subito. Certo. Certo che sì. Cazzo, ti voglio mandare indietro, ma guarda tu, tutta la galleria è sparita, cazzo, ma vai con la terra e il tuo telefono. Ma che c'è? Cosa vecchio? È un Samsung, cosa vecchio? È che ho cambiato compagnia, devo aver fatto un casino, mi è sparito tutto dalla galleria, cazzo. Vai giù l'MC60, un microfono di Gianni. Vabbè, 4 fotografie faccio. Ti volevo mandare l'ultima che ho fatto proprio per farti vedere davvero, poi si vede il ripetitore, vabbè già te la torno a fare là. Io lo stesso mi all'altro telefono, ho messo un'altra compagnia, vedi, ho messo, mi hai mirato, con 7,90€ il 99 mi ha dato 100 giga di internet e cose, e messaggi e telefonate tutte limitate. Fate funzionare un computer manno è una meraviglia. Sì, anch'io, già cioè, volattime mi stava disanguando, 15 euro. E non va più nulla. Adesso c'ho anch'io tipo quella lì, 70 giga, c'ho e pago, mi pare, 9 euro, una cosa del genere. Niente, no, vabbè, qua c'è il sistema computerizzato, fatto fare tutto. Anche perché mi sono rotto le palle di stare con questi telefoni, agganciare, fare. Claudio, che compagnia? Veri. La c'ho Vodafone, sto diventando scemo. Quando mi fanno una telefonata, attaccate la linea 4-5 volte, in una telefonata, stasera mi chiama Elena, e ogni volta mi tocca chiamare 5-6 volte perché cade la linea. Ci ho fatto un casinone per 3 o 4 volte, adesso sembra che stia andando bene oggi. Oggi è l'ultima volta che li ho chiamati, quindi dopodiché mi metterò tutta la cosa, me la scaricherò dal telefono e mi metto un'altra compagnia che convenga, perché con la Vodafone non si può più lavorare. Oh, io ho messo Iliad qua e mi trovo benissimo, ce l'ho da poco però mi trovo bene. Cappagatto. Ma io vengo le schede dei tabacchini normalmente. No, lo carichi, io lo carico al telefono. Lo carico direttamente al tabacchino, capito? Scusa. Ora l'edicola, dove vuoi vai? Una compagnia normale, del gruppo. Non so se del gruppo Vodafone o del gruppo della Tre Iliad, no, Vodafone. Gruppo Vodafone, no. E allora? Funziona bene, va bene. C'è un bel cervello, attenzione dove sono io, ragazzi. Già, io non ho antenna collegata alla TV, Io ho messo Veri nell'iPhone, ci ho messo, ed è quella lì è collegata sulla Windy 3. Sì, prima avevo Windy 3 io. Col computer, però il telefonino avevo sempre la TIM, capito? Adesso ho fatto un'unica compagnia e c'è il bigliello sia al telefonino che al computer, tutto Iliad. No, io ho il telefono che uso io sempre, che ho tutti i numeri di amici e gente di casa, quello lì lo uso io. Ma nell'altro ho messo un coso, Veri, ho messo, ma è una meraviglia. Cammino quasi qua, a me pure un coso da pagare 20-30 euro al mese, prendo un 7,99 euro, mi fate girare un computer, è una meraviglia. Allora, ma conviene fare così, allora? Cosa? Già. Ho detto anche nel cellulare l'hai messo? No, nell'iPhone quello lì l'ho messo, Veri. Nel mio c'ho quello che uso tutti i giorni, c'ho quello della U. Quello della UHO. E cos'è? Una nuova compagnia? La moto c'è, la moto. E va bene lo stesso. Io non le conosco queste compagnie, sono rimasto arretrato, io mi sono arretrato. Wind, Vodafone, Team, queste compagnie qua. Iliad, vabbè, l'ho sentito, però dice che ci sono anche della TIM, che ce n'è una sottomarca della TIM che fa pagare lo stesso 4,90 euro, una cosa del genere, da un medi giga. Tu devi andare a questi centri che fanno oggi, centro TIM per dire, o centro Vodafone, o centro Wind. Io vado a un centro Wind qua a Corso e chiedo e gli dico qual è quella che mi costa molto di meno, che mi conviene di più. E te lo dice, se ti conviene la fai, se no la lasci. Ecco così. No, ma che ex città mercato, che adesso è Conad, ci sono tutti in fila, dove ci sono i negozi, si mettono al centro, che vanno verso la scala mobile lì, si mettono al centro lì, tutti quanti in fila, ce n'erano un altro giorno, ti fermavo i due passi che faccio. Ma quelli sono per la DSL però. No, per i cellulari. telefono e poi i cellulari. Oh, no, quello fa per avere la DSL, quello lì, però se anche per i cellulari già va bene. E comunque, no, io ti dico una cosa, l'altro giorno quella lì l'ho messa, perché c'avevo un telefono che non stavo usando, ed è nuovo, un iPhone, e allora cosa ho fatto? Ho preso e gli ho messo una scheda anche lì, e ho preso quella che costava quasi di meno, sentivo 99, però mi ha dato 100 giga, mi ha dato, 100 giga, e non me ne consumo. Sì. 100 giga, ma bisogna vedere se prende bene come telefono. Sì, già prende, già lo stesso gruppo già, io ce l'ho 70, prende benissimo. Sì, perché se mi rompe vola, sto pagando 15 euro, cavolo, anzi, 8, 16, devo fare due ricariche da 8 perché per risparmiare l'euro che devi dare in più, basta fare due ricariche da 8 e non paghi l'euro. Insomma, questo va bene, guarda, la team mi stava disanguando, mi si è rotto le balle. E adesso come adesso bisogna cercare dove si risparmia. Naturalmente deve esserci sia la qualità che il prezzo. Allora io sono passato all'ICA mobile 5,99, 70 giga, messaggi e chiamate limitate. Mi attivano domani. Oh Lu! Eh? Per andare nell'archivio del telefono, cosa bisogna fare? Nell'archivio qua, c'è l'archivio, no? Allora, aspetta. Mi senti, sì? Ehi, no, non c'è scritto archivio, c'è qualche altra cosa, no, non so dove andare. Devo recuperare la roba della galleria. Io c'ho l'archivio. Ora nelle icone ce ne sono più di una messa assieme. Io c'ho l'archivio, vedi? C'è molta roba lì. E che client, boh, io sono entrato in impostazione, wifi, bluetooth, modalità offline, router, utilizzo dati, reti mobili, NFC e pagamento, altre impostazioni, showing, notifiche, schermo, applicazioni, sfondo, schermo, privacy. E scrivo in alto, ti dice cerca, scrivi archivio. C'è gente sottofondo qua. Sempre zieri, non hanno altri canali. Lo sento bene, poco fa l'ho sentito bene. Come cerca lui? Che cazzo cerca? Lo scrive cerca, impostazioni, cerca, lui eroga non ne cerca. Per forza ci deve essere lì. Non alle impostazioni, non devi andare nelle impostazioni, nelle icone devi andare al telefono. E lì archivio. Qui c'è rubrica, messaggi, internet, telefono, camera, video, radio, galleria, è vero, orologio, strumenti, calendario, Galaxy Store, Smart Manager, impostazioni, YouTube, Play Store, Chrome, Come, Map. C'è, già c'è cerca. Io non ti posso aiutare, come faccio aiutarti da qua? C'è per forza. Quando tu trovi una cosa, per esempio, aspetta. Allora, se io vado qua e scrivo archivio, no? Insomma, me lo dà, qui archivio, vedi? E me l'ha dato. Che sono tu, vai un telefono altro mio. E voglio un telefono di per i capelli. No, è quello di Laria, sì, sicuramente già li ho l'archivio, che te lo consegna un da blu. Quello di Laria, mamma mia, ragazzi. Ah, eccolo, sì, l'ho trovato. Immagini, video, audio, documenti, cronologia, download, per memoria, dispositivo, sì. Io sono entrato, se mi avete chiamato sono qua. Tira un attimo, sì. Ah, siamo qua. Non siamo andati. Non mi sentivo. Cazzi, manco nell'archivio ci sono qua. Ho cancellato tutto, testa di minchia, guarda, allucinante. Perché tu ti devi trasferire tutto nel telefono, i dati che ci avevi, e poi ti mettevi la scheda, così non perdevi nulla. Ma dimmi Lucas, dimmi che palle. E anche a me una volta è successo qua, però non ho più fottito, basta che ti trasferisci i dati. Vabbè, ma ho perso tutte le foto belle, c'era quella del Tana più 3. Ma vuoi diventare cattura? Ma dimmi due. Vabbè, pazienza, lo torno a fare. Già te la rimando, non ti preoccupare. Oi, ciao. Quella lì c'era. C'era quella lì che mi hai mandato tu, dal Tana più 3. Ce n'erano anche altre, ma porca miseria. Ciao Gianni, Luca, poi anche Franco c'è. Cioè. vabbè, no, continuate che ho un abbassamento di voce. Ciao Giù, ciao Elia. Ehi, tu c'hai abbassamento di voce, io faccio abbassamento di tutto. Ora posso anche stare in piedi più. Sono 10 giorni che sto trottando come i negri. Ciao Giulio, buonasera. Ciao. Vabbè, dai, comunque. Dai, viene questo problema, cosa vuoi che dica? Ogni giorno ce n'è una nuova, non è possibile. Ieri il braccio, oggi la morte, domani non si sa. Vabbè, dai, continuate. Piano, Matteo Giù, piano. Ciao Giulio, ciao. Ciao Giulio. Ciao Luca, ciao Gianni. Vabbè, dai, comunque. La vita è così, e cosa ci vuoi fare? Per chiarire la voce devo parlare prima un'ora, dopo mi si chiarisce, dopo un'ora che ho parlato. Allora sì, ma inizialmente, non so per quale motivo. Ma ho preso freddo, roba del genere. Ma mi succede sempre, anche d'estate. Ma da anni ormai, non è da adesso, da anni. La mattina magari sono tranquillo, non ho niente. Arriviamo verso l'ora di pranzo e ho l'abbassamento di voce. Non lo so, vabbè, cosa devo che ti possa fare? Non ti posso fare niente. Siamo esani, dai. Magari se parlo continuamente, dopo un po' mi si chiarisce bene, proprio che posso anche cantare. Magari in maniera stonata, però canto lo stesso. E allora, Clara, allora ti sei buttato in altura, ti sei messo. Più o meno siamo lì, non è che cambia molto. Segnale tuo leggermente più alto. Vabbè, io sto usando il baracchino con 8 watt. Poi sistemeremo tutto di nuovo. Beh certo, col tempo si fa tutto. E il banco dove te lo metti o quello lo elimini? No. Ho già portato, già svuotato tutto, già portato via tutto, no. Non c'è più niente a Carmonazzi. Non c'è più niente, quello va come l'hai montato tu, va in una parete uguale, preciso, identico, però devo fare tutto lo spazio e me ne vuoi ancora, devono venire ancora a montarmi i mobili, figurati. Piano, lo so, quando c'è da fare i trasporti, a parte il fatto che è costoso il trasporto, no? E poi è molto impegnativo. Ci vuole tempo, ci vogliono giorni e giorni per potersi organizzare alle vecchie abitudini, eccetera, eccetera. Permesso che poi quando uno cambia casa deve cambiare tantissime cose, quasi totalmente tutto. Però è così. Avanti Luca. E cambiare tutto. Tutto praticamente. Tutto. Tutto, vabbè. Vabbè, lo stesso, non c'è problema, tanto. Si vive una volta al giorno. Avanti, Luca, ci sei? Sì, chi è? Troppo alto, sì. Emilia, abbassa leggermente. Adesso andiamo, no? Sì, adesso sì. Emiliano da Porto Torres, ciao Emiliano, Giulio da questa parte, vai. Ciao Giulio, sto provando un microfono, però qua sta trattando. Un po' troppo alto, sì, cos'è, 60? Perlomeno io ti sento non molto chiaro, ti sento nasino, dai, un po' barattoloso anche io ti sento. Non so gli altri come... Adesso ti mando Gianni, dai, la salsa è così lui ti darà qualcosa in merito. Vai Gianni. Ciao Emilia. Non piace manco a me, non è molto chiara la modulazione. Non è chiara. Magari si potrebbe fare qualcosa in più per regolarlo. Infatti, non sto regolando. Adesso come mi sentite? Adesso è chiarita. Adesso è chiarita. Schiarita volevo dire, ha detto chiarita, no? Però giù, se mi hai chiamato, mi sono spostato, mi hai chiamato la pizza. Già lo sai che ti sei di un libro, Biggià. Zitto tu che lo chiami Super Sideri, che si chiama Super Sick the Kick. Ecco, io non riesco a dirlo Super Sick the Kick. Io lo seguo, ti giuro, ho sempre chiamato Super Sideri, che già sempre, dalla vita. Super Sideki, che è scritto così, mi è scritto Super Sideki. Ah, Super Sideki, ecco, vabbè, Super Sideki, che già riesco a dirlo, però ti giuro, l'ho sempre chiamato Super Sideki. Chi è che chiama Claudio? Avanti, io ti sento basso, sono in condizioni precarie, chi sei, dove sei, avanti. Ciao Roberto, ma sei ad Alghero? Io ho cambiato casa, quindi ti ascolto molto molto più basso rispetto a prima, però se mi stai dicendo che anche tu sei in condizioni precarie, allora la colpa non è la mia, perché l'altro giorno stavo parlando con Ruby e arrivava a 9 più 10, quindi non c'è problema. Non so se ti hanno ascoltato gli altri, ma non credo, Giulio sicuramente no, perché arrivi basso a me, sicuramente Giulio non ti sente. Lo senti a Roberto D'Alghero oggi? No, assolutamente non lo sento per niente, come se non stesse parlando. Silenzio assoluto. Vai Gianni, tu lo senti? Sì, sì, io lo sento. Ciao Roberto, mi sentite cordialità, avanti. Ma sono a doppio run, dai, doppio run da questa parte, Roberto. Mi hai sentito, dai, anche se ti ascolto un po' bassino, ma ti ascolto, dai. Vediamo un po', Roberto, mi ascolti a me? Ok, anche io ti ascolto un po' bassino, ma ti ascolto, dai. Ti ho sentito me molte volte molto molto meglio, comunque va bene, avanti qua. E anch'io lo sento sempre, oltre il 9, adesso sei 8, vabbè, Santiago 8, sì, sono in una zona campagnola, dai, non voglio fare pubblicità, in una zona campagnola con l'antenna a 2 metri d'altezza da terra in un secchio di tinta. Niente, sono in fase di costruzione, in fase di sistemazione, roba. Comunque ti ascolto, Santiago 8, Radio 5 per me. Tu mi senti bene, rispetto, vabbè, ho provato il baracchino anche io, va bene, più che ottimo, ottimo, ottimo, ottimo, va bene, ok, faccio girare, avanti Franco. Capo, no, io negativo, non sento per niente Roberto Di Alghero, niente. Ciao Emiliano, buonasera, ben ascoltato. Ciao, capo, no, io non lo sento niente, forse sento qualche giro lontananza, ma non capisco. Adesso ho cambiato il microfono, quando mi senti? Ti devo dire che questa è più bella modulazione, più corposa. L'altra rimane, come ti ha detto Gianni, un po' barattolosa, un po' senza timbrica, senza tonalità. Questa già sento la tonalità medio-bassa, è molto più chiara. Giulio? Sì, confermo, così va meglio, Emiliano. Così va meglio rispetto a prima. Prima era quasi inascoltabile, ti capivo quello che dicevi, però era proprio brutta, infatti te l'avevo subito accennato. Va bene, dai, riprendi e fai prova, magari non so, verso Sennoli, e vediamo un po' come ti sente Franco da Sennoli. Vai Emiliano. Franco, guarda, adesso provate a tagliare il microfono, come mi senti? Sì. A confronto di poco fa sei molto più chiaro, è più bellina la modulazione, niente, è un po' cupa l'accento, ma leggermente. Ciao anche Emiliano, se mi ascolta. Ciao Emiliano. Sì, ti sento, ciao. Luca da Sassari, chi è che c'era? Vabbè, Gianni, ripeto. Ma dove sei? Che sei tu, Luca? La mamma, sì. Ma io avevo roba da fare, io ci sono sceso. Avevo dei lavori da fare già. Ah, ecco. Ma che ha detto, capo, la casa di Marina, se sente Alghero con la boomerang, va bene. Lo sento bassissimo a Roberto, basso, basso, basso, segnale non ne ha. Sarà un arredo di uno, faccio qualche fatica ad ascoltarlo. Non so se lui mi ascolta uguale, non lo so. Avanti, Roberto. Sta facendo cosa, ha detto, no, ma in condizioni precarie anche lui, stava provando un baracchino, di solito va con più potenza, con radio, arrivava intorno al 7, a me 7, 8, io arrivavo neanche 5 a lui, figurati, Comunque già arrivavo, dai, già va bene. Emilia, che cosa stai usando di microfono, se si può dire adesso? No, c'è sempre quello 2060. C'è sempre un microfono da 40, adesso mi hanno prestato uno scuro, sempre di quelli là per cantare. Però come l'ho detto voi si sente un po' meglio. No, ma non c'è paragone. Con l'altro che stavo usando poco fa, questo non c'è paragone. Totalmente la modulazione rimane più corposa, l'altra era troppo burottosa e poi era molto metallica. Comunque mi sento abbastanza amplificato, o no? Abbastanza amplificato, segnale oltre il 9 addirittura. Ma ora riprendo io un attimino, dai, vi lascio che stanno a portare giù il cane che mi sta chiamando, dove se deve scendere giù. Ci sentiamo per il momento, se poi coincide ci sentiamo più tardi. Salutoni a tutti distintamente, cordialità e grazie per il consiglio. Ciao, se così è dopo, se no ritenetevi tutti salutati perché anch'io chiudo, dai, mi allontano un po', mi ha chiamato già due volte mia moglie sicuramente a spostare qualcosa. Ci sentiamo, ciao Giulio, ciao Luca, Emiliano, Franco, Roberto Alghero, a te Gianni, insomma, un saluto circolare a tutti, dai. Io vado e vengo purtroppo, poi già mi assesterò di nuovo, dai. Giulio, a te il cambio. Ok, ciao Claudio, allora, grazie a te per la chiacchieratina. Altrettanto dicasi per Gianni, ciao Gianni, buona passeggiata con cane. Rimetto il microfono a Franco da Sorso, avanti Franco. Ok, ciao Claudio, buona... Buon continuo di serata, buon tutto, ce la ascoltiamo alle prossime, dai, oppure più tardi, se coincide. Ciao anche a Gianni, buona passeggiata col cane. Avanti Emilia. Ehi, ciao, ciao, come ti avevo riconosciuto? E niente. Ciao a tutti, ciao Claudio e ciao Gianni. Come, non mi avevi riconosciuto? È già la giudizia o tu l'hai? Avevo capito, proprio con la cosa da Signori. No, Giulio ha detto Franco da Signori. E vabbè, ma io so che sei lontano l'azienda di noi. Tu i baci, tu vedi già. Per quello non te lo dà. Infatti è stato un errore mio, io ho detto Signori invece no, Sorso. Si vede che era un po' fra le nuvole in quel momento. Va bene, dai. Ma c'è Luca anche, avanti Luca. Io Emiliano non l'ho mai sentito, ma sei nuovo Emiliano. Ciao, sì, diciamo, mi ricordo tanti anni fa, tu adesso mi ricordo con te, che la prova in 15 giorni, non sì. Ma in che anno parlavi? Era un po' anni fa, 94, 95, 96. Ah, allora io mi sa che ho iniziato a 90, mi sono 91, mi nascosto di mio fratello, quella cosa mi è piaciuta, mi ha appassionato molto, molto, molto. Allora me lo sono messo per i fatti miei perché lui non voleva che lo toccassi. E niente, mi sono bubetani, un bel pure io. Ma non l'ho mai sentito, sicuramente nemmeno tu a me. Per letto di qua sì, vabbè Giulio, Claudio, vabbè Claudio ci conosciamo da tanti anni, un Gianni lo stesso. Questa è uno dei primi a sentirmi Claudio. Molte volte non riuscivo neanche a entrare perché lo usavo un attimino dentro casa, capito? Per i primi. Guarda, ti facevo chiamare Caimano, tuttora sono Caimano. Però ma sei giovane, sì. Insomma, 41. Ma la età mia c'è, cioè, 74? Sì, sì. Avevo coetanea allora, no? Anche io poi avevo mollato un tempo, là, perché mi tagliavo il cavo dell'antenna, tre volte mi hanno tagliato, poi alla fine mi sono arreso. Vai a cuccia, vai, non stare addosso a me. Mi sono arreso e allora hanno staccato tutto. Poi di nuovo ci ho riprovato. Poi da quando sono passati da analogico a digitale, ho risolto il tutto e sono già qualche anno di nuovo. Là. Avanti, Fra, ripeto. Sì. Allora, problemi della gente al fianco ci avevi sempre, come tutti lui. E purtroppo da tutte le parti quello lì esiste. Allora ci vuoi fare? Avanti Giulio. Ok. Media 46 anni. Tu pensa che ancora non hai l'età degli anni che sono io in frequenza. Tanto per dartene un'idea. Perché io ci sono dal 1972, febbraio 1972, praticamente ho fatto 49 anni di frequenza, ormai siamo vecchi, qua è Emiliano. Diciamolo, allora sono troppo raro, tutto con la pensione qua CD, guarda un attore. Sì, ma c'è qualcuno comunque che è ancora più anziano di me in frequenza, e naturalmente anche di età. C'è qualcuno che c'è 54 anni anche, non so se l'ha mai sentito, però non ti dico chi è, ma è così. Quanti anni ci sei, Giulio? 49, fatti il conto, 72, 2001, febbraio, e febbraio avrebbe iniziato, e sono 49 anni compiuti. E quindi ho 47, perché sono dal 74. Eh beh sì, i conti tornano, no, non si può dire di no, è così. Ma avevi capito, Emilia, c'è qualcuno che c'è 54 anni in frequenza, grazie a Dio è tranquillo e pacifico. Cavolo, e se te lo dici con la pirata, cosa non mollare? Io e quest'altro amico che ti sto dicendo, mai, mai in assoluto, mai e poi mai. Ci siamo ridotti a pochissime persone e ti posso fare anche i nomi. Uno era quello di Usini, l'altro era la buon'anima di Emanuele Ponzio Pilato, l'altro era Gian Maria e poi c'era un altro che non mi ricordo che fosse, insomma c'eravamo e poi non c'era più nessuno nel 27, allora eravamo sulla frequenza col baracchino della Marina, diciamo, dai, sul canale 8 di solito entravamo con VHF Marino, ma per diversi anni, però ogni tanto alternavamo anche la 27, per cui non sono mai, mai, mai mancato in tutti questi anni. Vai ancora, Emiliano. Manco io, quando uno c'è la passione. Di solito se uno non ha passione non può durare tutti questi anni attaccato alla radio, assolutamente no. Ma da sempre, diciamo che la passione io per la radio ce l'ho sempre avuta da ragazzino, dall'età di 14 anni, non per il baracchino, o meglio, il baracchino mi sarebbe sempre piaciuto, ma non ce l'ho mai avuto fin quando non avevo una certa età. Caso strano, un mio cognato, che allora lui in quel periodo aveva 14 anni, era venuto insieme ad un altro amico, anche lui 14enne, e volevano le casse per farsi la discoteca nelle cantine, perché andavano a ballare, no? E non avevano gli altoparlanti, o meglio la cassa gli serviva. Gli altoparlanti ce l'avevano, ma non avevano la cassa dove attaccarli. È venuto da me e io gli ho fatto queste due casse, gli ho fatte, in cambio mi avevano dato un baracchino sei canali, che esattamente si chiama Pony sei canali, con microfono che si parlava e si riceveva sempre dal microfono, niente di più. E da lì ho iniziato l'avventura sino a quest'oggi. Avanti, vediamo. Uguale, stesso baracchino, due anni prima hai iniziato tu, anche io ho iniziato col Pony sei canali. Sì, infatti, poi la prima, una delle primissime prove che avevo fatto, l'avevo fatto a casa Costanzo, ora zero, Antonello Norton, lui aveva il 35B della Constat e avevamo fatto la corsa, e cioè io che ce lo corriamo, queste tutte cose che io stavo appena iniziando, non sapevo nemmeno com'era questo Constat, mi ha chiamato, entra, vieni, ho portato dietro il baracchino e che abbiamo incontrato in frequenza, il marito di Gabriela, non mi ricordo neppure come si chiama più, quello che avevo io dava 5,8 watt, mentre il Constat che aveva nuovo e appena comprato, bellissimo baracchino, barbolare eccetera, era meno potente in uscita, e il mio baracchino l'aveva battuto in potenza, dando il controllo sia al baracchino mio che al baracchino di Ora Zero, di Costanzo Ora Zero. Avanti, Claudio. Allora, Bartolomeo XGL, io ho sempre lì a casa sua, aveva belle radio, Io ho fatto pollici e canali nel 74 e nel 76, poi avevo comprato da Pintus e Scarpa la KB23 col tunnel più 2, però ero a Porto Torres, la casa di mamma. A Sassa io sono arrivato nell'85, capito? Però ho iniziato dal 74 col Poli fino al 76, e poi nel 76 ho usato l'HB23, che già lo conosce, quello lì, capito? E poi ho iniziato, insomma, a crescere, avere un mondo di radio, un mare di radio. Va bene, dai, io sono qua che sto facendo, che mia moglie mi ha chiesto di aprire delle scatole che le serve della roba, quindi vi ascolto e vi lascio. Però dai, sono entrato solo Emiliano, Mastro Giulio me ne frega un po' di anni, almeno 16, però io ho iniziato a 14 anni a usare il baracchino, va bene, e ancora siamo qua. Avanti Emiliano, ti lascio con Giulio in buona compagnia, dai, se mai ci sentiamo dopo, vai. Scusa Emilia, scusate che devo mollare, che è arrivata mia moglie e doveva scaricare gli aspetti. Ma ci sentiamo, se ci siete dopo, se no aspetta, alle prossime. Ciao Emiliano, ciao Claudio, ciao Giulio. Riprendi Giulio, Emiliano sta a girare. Ciao. E io adesso ho iniziato con una lampo facile, non mi ricordo come si chiama, ancora la giunta, non me la metto più. Ciao Franco, ciao, grazie della chiacchierata. Adesso che mi si sta schiarendo la voce, te ne sei andato, te ne stai andando anzi. Va bene, dai, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Fra, alle prossime. È così, Luca ci sei. No, Luca ci ha abbandonato, Luca, si vede che ha da fare. È così, d'altronde gli anni sono passati e purtroppo il tempo passa. Era bello allora, eravamo in tantissimi, eravamo a Sassari, tu sollevavi la testa e guardavi su tetti, non vedevi altro che antenne per il baracchino. Oggi invece ne vedi qualcuna così, ma in maniera molto sporadica, proprio non è che ce ne siano più di tanto. Allora eravamo in tanti veramente, anche tante donne c'erano, ma non solamente a Sassari, anche a Porto Torres ce n'erano tantissime, e in tanti altri paesi lo stesso. Tutta la zona limitrofa a Sassari era pieno di antenne, di baracchini, ed era bello. Oggi siamo ridotti a poche persone, ma va bene lo stesso, ci divertiamo ugualmente. Vai Emiliano. Oh Emiliano, una domanda. Sì, ma tu sei Porto Torres proprio? No, io sono di Chiaramonti, trapiantato a Porto Torres. Ah, ho capito. Sì, di Chiaramonti, trapiantato a Porto Torres. Ma abiti lì a Serra di Pozzi, vicino a Claudio? No, Claudio, quello di Nulvi? Non lo conosco, non sono presente. È un radioamatore. No, quindi non ti posso fare domande, no, perché io abitavo, mia madre abita ancora in via Cavour a Porto Torres, hai capito? Però tu, se non sei Porto Torres, sicuramente non conosci. Io sono nato lì e modulavo da lì. Di fronte a me c'era Gavino Carciofo e Antonio RSI. Poi vabbè, Ernesto era più dalla parte di via Sassari, assieme a Carlo Tittano e tutta la greffa. Giampaolo era al centro. Eravamo tanti. Vabbè, sono sì di Porto Torres, perché io sono di Porto Torres. Nato a Porto Torres e vissuto sino a... per 25 anni sono stato a Porto Torres e poi a 25 anni mi sono trasferito a Sassari. Vai Giulio. Ok. Sì, volevo chiedere a Emiliano se lo conosce, se sai se lì alla come si chiama, al porto c'è, cioè ancora Maestro Leo, quello che fa le barche, perché era un uomo anziano, è per quello che ti faccio la domanda. Ormai io sono già quattro anni che non l'ho più visto. C'è sempre, sì, niente ne sai Emiliano, conosci quello che costruisce le barche, Maestro Leo? Sì, ci dovrebbe essere ancora, lo vedi sempre al porto. Adesso la verità sono un povero compagno, però c'era sempre, con il suo figlio. Quel radioamatore che c'è vicino a me, forse ho capito più, è tutto ricciolino qua, ce l'ho fianco a casa proprio, sulle antenne. Sì, sì, sì, sì. Lo conosco di vista, non lo, però ce l'ho proprio a fianco a casa. Sì, sì, vabbè, andiamo ancora per modo di dire. Peggio di me, io dal 92 che ho patente radioamatore, ma attività diciamo non ne ho mai fatto, ho sempre coltivato la 27, sono sempre rimasto il 27, alla fine poi ho ceduto, mollato, tolto tutto, le antenne, tutto. Ce l'ho sempre la patente e la licenza, ma no, non è in uso, capito? Sì, il mazzo Leo c'è sempre, o Giulio, ehi, l'ho visto alla festa grande l'anno scorso, mai più grande di te, mazzo Leo. A voi è di parecchi anni, penso anche, te lo credo, nonostante tutto, tu pensa che l'ultima volta che l'avevo visto io, mi sembra che mi aveva detto che aveva intorno agli 83-84, una cosa del genere, boh, se ricordo bene era così. Sì, è un uomo che è attaccatissimo al suo lavoro, non si stacca tanto facilmente, è bravo, è un bravissimo carpentiere navale, proprio veramente bravo. No, io andavo sempre lì da lui perché avevo io un amico, un cliente, tra l'altro, oltre che cliente era anche un amico da tantissimi anni, che aveva la barca anche lui, e la portava lì per il messaggio quasi tutti gli anni, e dunque tutte le volte che portava la barca lì io andavo e gli facevo dei lavori in questa barca, una barca grande, ecco perché l'ho conosciuto questo maestro Leo, molto, una persona molto competente, veramente bravo, il suo lavoro lo conosce veramente molto, molto molto bene, avanti ancora qua. No, volevo chiedere a Emiliano se posso? Vai, vai. Cioè, ma la barca c'hai lì al posto? Adesso ho consenso, l'ho venuta da qualche anno. Ma è conosci mio fratello, Carletto? Vabbè, è stato di Carletto. Che acqua? E c'ha la... che macchina c'ha adesso? La Ford Fiesta grigia. Sì, la conosco bene. Non sapevo, vabbè, non... forse siete più fratelli. Sì, mio fratello, certo. No, ti ho chiesto se siete più fratelli, già sono. Sì, sì, sì. Ehi, ehi, Mastro Leo, Giulio è un maestro carpentiere, avvero, però io avevo una passione grandissima in questo, a parte il fatto che conosco il figlio perché era a scuola con me, alle medie, quindi, perciò, sì, Mastro Leo, cioè, ti dico esattamente quanti anni ha, ne ha 88, ne dovrebbe fare 89, forse tra qualche mese, sta andando per i 90 anni, e ti dico che sta ancora lavorando ed è ancora bravo, veramente bravo. Io ho visto un grosso fatto da lui che è gareggiato a Stintino con l'albero, fatto da lui un grosso a vela. Ma ti dico una cosa fantastica, Giulio, una cosa da vedere, sembrava l'Amerigo Vespucci in miniatura. Sì, ma io ho visto diversi lavori che lui ha fatto e poi lo vedevo come lavorava, era insomma un uomo veramente bravo, competente nel suo lavoro. Purtroppo sono operai di vecchio stampo quelli e pertanto lo sappiamo dalle persone di quell'età, visto, beh, evidentemente mi ricordavo anche bene l'età che avevo detto, perché io sono almeno 3 o 4 anni che non ho più visto, e mi ricordo che avevo detto quell'età lì intorno agli 84, 83, 84. Tu mi stai confermando che ne ha 88, sì, che siamo lì allora, dai. Molto bene, no, ultimamente avevo visto quell'esposizione delle barche che avevano fatto lì in via Cavour, che via era, quando l'anno scorso, dai, 2 anni fa forse. E c'era una barca anche fatta da lui, sempre molto bella, molto ben finita, veramente un'opera d'arte, dai, è veramente bravo, veramente. Avanti Emiliano. Luca, ti racconto un episodio che mi è successo con tuo fratello una volta. Siamo andati a pescare con la mia barca mia, e siamo andati alle Minelli, una cerca del centro di Crotone, che è finito. E c'avevo un motore auxiliare. E lui era motore. Sicuramente quel motore hanno cercato di rubare una roba del genere, si è mollato. Cazzo, da un'accelerata a tuo fratello, perché non ne perdiamo il motore, no? stai facendo molto da moglie. Allora, lì che vado a cazzo di sei cavalli, non volevo, perfetto. E io ho pregato io non mettermi un pisaggio, un bullone, non solo ho messo i galletti e basta, ho fatto la prima. E beh, non si poteva recuperare. Oh, mi sembra che c'erano in quel pezzo 40-50 metri di profondità. Sì, cazzo, non c'è un sub lì a Porto Torres, ma bravo, sicuramente ce ne saranno tanti. Ma guarda in cazzatura, sono segnato subito il punto, ma no, comunque era proprio un punto dove era anche più alto. Oh vabbè, lo so, certo è rompere un po' le scatole. E mi sembra l'aveva raccontato una storia del genere, me l'aveva raccontata. Allora conosci pure Tore Mura, lasciamo parlare, non sta bene di salute, faccio la butta fuori, Domenico Mura, sono miei amici quelli, e già li conosco, dai, poi conosco, adesso non mi ricordo il nome, Tore, Vasco Rossi. Ma fratello Monzitta conosci tu? Fratello Monzitta? Che ci diciamo, è fratello Monzitta? No, non lo sapevo, Domenico Mura e Tore Mura. Ehi, e allora? Sono il fratello del vigile. No, il padre è la vigile. Ehi. Comunque conosco anche il padre, conosco la mamma, sì, conosco. Diciamo. Li conosco da tanti anni. Quando erano piccolini venivano qua, perché c'avevano un parente che purtroppo è deceduto. Qua non è che siete in Canada. Li conosco. Vabbè, dove a Tore Mura, Tore no, questo qualche anno fa, questo lo conosco, boh, 5-6 anni, adesso non mi ricordo, vabbè. Ma Domenico ci conosciamo da ragazzini. Mi c'era stasera qua, che ho sistemato un computer, un telefono. Domenico lo conosco bene, il Tore di meno, però Domenico meno. Ehi, vari, tanto è già una gemma Silvia. Io li conosco perché sono nato, quindi ce li conosco tutti. Vai Giulia, dai, io vi lascio, mi allontano, anzi, apro, aghito il bencino, lo faccio uscire un po' gareddo, dai, esco un po' fuori col cane, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Claudio, allora dai, ci sentiamo, a domani se coincide. Vabbè, dopo casomai, adesso il telefono ce l'ho giù, ce l'ho, dopo casomai ti mando quello schema, e così ce l'hai di nuovo, non c'è problema. Avanti Emiliano. Oh, scusate, devo salutare anch'io, la bambina mi voglio. Grazie, ci sentiamo nel colloquio. Saluto le attività, no, ciao. Ok, ciao Emilia, grazie per la chiacchierata, dai, ci sentiamo alle prossime. Fate sentire ogni tanto, così almeno scambiamo quattro chiacchiere. Avanti Luca. Ehi, ciao Emilia, salutone, da. Alla prossima, lasciamo qua noi, nel caso che già ci facciamo un salto anche al 12 ogni tanto, va bene, buonasera e buon tutto. Chi c'è rimasto? Gianni, ci sei? Sembra che siamo rimasti solo noi due, o Luca. Vabbè che è quasi ora di cena, ma comunque ancora una decina di minuti io ce li ho disponibili per poter rimanere al baracchino. E allora, cosa mi dici tu? Io ho già cenato giù, Ah, tu mi hai già battuto in anticipo. Aspetta, hai battuto me, cosa vuoi che ti dica? Va bene così, non c'è problema. Sì, no, noi di solito intorno alle 8, 8 e 10, 8 e un quarto massimo, ma sempre quello è l'orario, non mai prima, difficilmente prima, però va bene lo stesso, non c'è problema. Sì, bisogna cenare presto perché poi magari c'è anche la partita oggi, la voglio vedere, vediamo un po', speriamo si faccia onore che tra Juventus su di Chifu quest'anno, però lo voglio vedere, speriamo bene, almeno se non altro, essendo una squadra italiana possiamo dire che va avanti. E cosa vuoi che ti dia? Certo, non c'è problema quest'anno per l'Inter, quest'anno è proprio alla grande, veramente. Poi non avendo partite di coppa eccetera, ha tutte le possibilità di andare avanti in maniera sempre riposata e soprattutto evita così anche tanti infortuni, perché uno è giocare ogni 3 giorni, uno è giocare ogni 7 giorni, e va bene così. Ma sono contento per l'Inter, dai. E poi tra l'altro l'interista io ce l'ho a casa, il mio genero è interista, non è sfegattato, però è interista, sia lui che il padre eccetera. Va bene così, avanti Luca. Sì, sì, vabbè, ancora ce n'è, non è detto, non è detto che c'è il demolmiano attaccato al sedere, capito? Non è detto. No, non è così, no, Giulio, me ne so quanti ti dava fa ancora. Basta che ne perda due, l'Inter è fregata. Beh, non è detto, perché bisogna che vinca anche il Milan, sempre quello, no? Per cui non è così semplice. Sì, no, ma ci sono tutte le aspettative dell'Inter, ci sono, dai, sono